Milan e aspetta, Milan e Manera, Champagne e Barbera! Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. A fatica, ma ce l'ha fatta il nostro caro amico, il nostro caro ascoltatore che ha mandato la presigla al 349-238-6666 in audio con i WhatsApp. E buongiorno a voi, cari ascoltatori. Siamo in diretta fino alle 11, come sapete, con uno, nessuno, 100 Milan, col nostro alpino in regia coadiuvato dal grande rossonero Danilo Di Trani, che è lì al suo fianco per verificare che l'alpino non faccia sciocchezze tipo applausi che partono così. Danilo, parti come direbbe il professor Jansen con il colpo sul coppino. Saluto la redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Ci siamo con voi fino alle 11. Voi chiamateci all'800 24 00 24, perché abbiamo tante tematiche da affrontare in questo bel porto di mare. Vai Alpino, vai. Bravi, bravi, continuate così. Enthusiasm. Grazie, grazie. Enthusiasm about the future. Io non lo so, poi quando mi accanisco su queste cose diventano delle battaglie come combattere contro i mulini a vento, ma questa storia della scuola, del fatto che si voterà nei seggi e con i seggi elettorali che sono come ogni tornata elettorale allestiti nelle scuole, non mi va giù. C'è da dire che sulla scuola vedo che c'è adesso grande impegno. Oggi leggevo che si penserà c'è il grande dibattito. Il metro di distanza tra gli allievi deve essere un metro di distanza statico, da bocca a bocca, anzi da rima buccale a rima buccale, oppure deve essere anche un metro dinamico? Cioè, tradotto, se un ragazzo si alza dal banco e passa a fianco a un altro banco, deve tenere la mascherina? Ecco, questo è un altro grande dibattito che c'è, come i test sierologici che devono essere fatti, che vabbè, il ministro Azzolina definisce test seriologici due volte, un po' impappinandosi, ma non importa, comunque vogliamo sentirla il ministro Azzolina. Vai Alpino. Colgo con favore la possibilità di svolgere test seriologici su tutto il personale scolastico, sì, in vista dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Quindi test. Ed è giusto, insomma, ci si preoccupa di tutte queste questioni. Io questa vicenda del fatto che si dovrà votare nelle scuole, cioè uno Stato che non riesce a dire utilizziamo le caserme, utilizziamo le palestre comunali, utilizziamo i teatri e i cinema e paghiamoli anche visto che sono al collasso, utilizziamo i teatri, utilizziamo i cinema, utilizziamo le biblioteche, utilizziamo degli spazi per allestire i seggi elettorali senza per una volta impedire le lezioni per giorni, costringendo la scuola a iniziare, che ne so, il 20 settembre di fatto. Una cosa incredibile, dopo mesi e mesi di chiusura, ancora non si pensa che sia importante la scuola. Mi hanno scritto ieri tantissimi ascoltatori e ascoltatrici su Facebook, voglio leggervi quello che mi ha scritto Loretta mi ha scritto: sono la responsabile dell'ufficio elettorale e dell'istruzione di un piccolo comune, sono alle prese con tutti i problemi riguardanti l'apertura delle scuole, garantendo servizi scolastici, trasporto, mensa, prescuola, eccetera, e in contemporanea allestire i seggi, tutti scaricato sui sindaci, sui tecnici. Lavoreremo tutto agosto a cercare di organizzare questa cosa. Per me è incredibile che ci si arrenda e che non ci sia un dibattito pubblico, un'idea, una volta un'idea, dire sentite un po', abbiamo avuto un'idea, questa volta per le regionali e per il referendum si voterà con i seggi elettorali allestiti nelle caserme. Oh, un'idea mezza, anche mezza basterebbe. Niente, non viene portata avanti. Magari è un'idea sbagliata la mia, e quindi allora. Sottolineo questo anche come notizia che mi ha colpito da Repubblica, e cioè semplificare, si parla sempre di semplificare. Sergio Rizzo oggi scrive sul quotidiano La Repubblica: secondo i calcoli fatti in Parlamento da Bruno Tabacci, sapete quanti decreti servono per mettere in moto il decreto rilancio che già ha 495 pagine? Servono 148 decreti attuativi, 9 del Presidente del Consiglio, 15 del Ministro dell'Economia di concerto con altri ministeri, 18 del Ministero dell'Economia solo, 41 di vari ministeri di concerto col Ministro dell'Economia, 65 di altri ministeri in concerto tra loro. Un totale di 148 decreti attuativi per far partire chissà quando un decreto di 266 articoli e 495 pagine. E poi si parla di semplificazione, e è stato fatto anche un decreto di cosiddetta semplificazione. Va bene, con queste due considerazioni amare, direbbe Leonardo Manera, voglio salutare il mio primo ospite, che è un ritorno, torna con noi il professor Andrea Crisanti, che saluto, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare a Padova. Buongiorno professor Crisanti. Senta, ormai abbiamo capito quello che succede, quello che succederà, i cosiddetti cluster, o meglio i focolai, come vogliamo chiamarli per intenderci, e cioè sappiamo che ci saranno delle situazioni di virus da ritorno, di virus, l'ultima è un imprenditore che è andato dal Veneto, è andato in Africa, ha scoperto di essere positivo e quindi c'è un problema. Le faccio questa domanda intanto: è giusto bloccare l'arrivo, da fare una lista di paesi e bloccare l'arrivo dei passeggeri da quei paesi, i paesi a rischio? Questo si sta pensando. Ma guardi, ci sono due opzioni: o si bloccano o si testano. Non credo che ci sia una terza via, perché la terza via sarebbe quella di magari di bloccare i voli o eventualmente fare la misurazione della temperatura, che abbiamo visto chiaramente non ha funzionato in passato, no? E poi penso che l'episodio dei passeggeri testati che venivano da Bangladesh, secondo me è una cosa unica di cui dobbiamo far tesoro. Cioè, su quell'aereo c'erano 25 persone che portavano il virus e erano completamente inconsapevoli, quindi noi da questa cosa dobbiamo difenderci, da questa infezione di ritorno. Noi, se le pensa, abbiamo perso quanto? L'11% del PIL, sono 170 miliardi, e questo è l'investimento che noi abbiamo fatto, in qualche modo dobbiamo essere in grado di difenderlo, questo investimento. Dobbiamo difenderlo, certo. E secondo me abbiamo l'alternativa è: arrivi dagli Stati Uniti, dal Brasile, dal Bangladesh, dall'India, arrivi all'aeroporto, ti testiamo, scarichi un'app che non può essere immuni, perché bisogna sapere esattamente dove sta questa persona, se sei positivo ti mettiamo in isolamento, non ci stanno altre alternative. No, certo, però il blocco, per esempio, negli Stati Uniti o dagli Stati Uniti, secondo lei è la soluzione giusta? Ma guardi, il blocco non funziona, perché a meno che non ci sia ai posti di frontiera la possibilità di decodificare questo numero magico, questo PNR, che praticamente ricostruisce tutto l'itinerario del passeggero. Altrimenti uno può tranquillamente partire da New York, andare, che ne so, a Doha e da Doha venire, oppure andare in Spagna e venire dalla Spagna, che ne so. Insomma, ci sono modi per eludere il blocco dei voli. Quindi il blocco dei voli, secondo me, è controproducente, perché crea una ulteriore complicazione di dover ricostruire tutto l'itinerario, che comunque sarebbe opportuno che i posti di frontiera fossero dotati di questa capacità. Certo. Come si contrasta questa idea dei focolai? Cioè, dobbiamo abituarci più che a una seconda ondata diffusa a questa idea che esploderanno questi piccoli focolai concentrati? Ma guardi, penso che stiamo vivendo una situazione che era stata prevista, cioè che in qualche modo scoppiassero qua e là dei piccoli focolai. Ora non è importante. Non ci dobbiamo preoccupare dei focolai, la cosa che dobbiamo stare attenti è di avere la capacità e la tempestività per identificarli, isolarli, e questo abbiamo imparato, perché questa è una povera la lezione di testare tutti e isolare le persone positive. Questo, se si fa questo con tempestività, si isolano. Ora, chiaramente l'Italia è molto più preparata, c'è la consapevolezza del problema, c'è la capacità, cioè lei consideri che quando è scoppiata l'epidemia l'Italia aveva la capacità di fare, che ne so, 1.000-2.000 tamponi al giorno, adesso sono 60.000, quindi sicuramente c'è questa capacità. Il problema, la tempestività, comunque ottobre, novembre, dicembre sarà chiave, perché non ci dobbiamo far sfuggire di mano, perché se ci sfuggono di mano, un conto è controllare 10-15 focolai, è un conto 100-200, chiaramente poi si disperdono le forze e non c'è più la capacità di intervenire, ecco, questa è importante. Senta, guardi, arriva una domanda da Patrizia che chiede questo: può chiedere al dottor Crisanti se non conviene ammalarmi adesso visto che fa caldo? Tanto conviene non ammalarsi, questo di base, però è interessante la domanda che pone la grande tematica dell'idea col caldo. Forse conviene adesso, se proprio uno deve ammalarsi, perché le terapie intensive sono vuote, gli ospedali forse sono più in grado di recepire dei malati. Sicuramente chi va in rianimazione adesso trova rianimazione vuote e chiaramente personale a disposizione, quindi sicuramente c'è molta più probabilità di essere curato in maniera adeguata e senza la sovraccarico di lavoro e tensione. Comunque il problema è anche vero che se uno prende un'infezione adesso si fa una malattia sicuramente meno grave, perché la carica virale è più bassa, però di contro, se uno, sappiamo già che in genere le infezioni che sono meno gravi in genere non inducono risposta anticorpale e quindi probabilmente non inducono nemmeno immunità. Quindi questo è tutto, certo. È tutto un dibattito ancora in corso di cui non sappiamo ancora bene. Le faccio un'ultima domanda, professore. Il tema del TSO, tanto buttato in avanti, tra l'altro dal presidente Zaia, che lei conosce bene, poi si è capito che forse non ci sono i margini legislativi per un TSO. Però lei da medico cosa dice? Ma guardi, io ho sempre detto che il TSO è una misura estrema. Ora noi, tutta l'Italia praticamente ha in qualche modo collettivamente aderita a delle misure restrittive senza nessun bisogno del TSO, quindi è chiaro che il TSO è una misura già prevista e cui contorni legislativi sono molto complessi. E poi tenga presente che il TSO parla di terapia obbligatoria, tenga presente che qui la terapia non c'è sta questa malattia. L'unica cosa che si può fare è praticamente il confinamento obbligatorio di una persona malata, che è tutta un'altra cosa. Insomma, penso che sia un argomento molto, molto scivoloso sia dal punto di vista medico che dal punto di vista legislativo. Certo. Va bene, io intanto la ringrazio, professore, per essere stato con noi. Ripeto, Andrea Crisanti, gli italiani insomma l'hanno conosciuto molto bene, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova, ma insomma il caso Vo Euganeo, come è stato definito, lo ha trattato in prima persona. E, grazie per essere stato con noi alle 9:20 minuti, cari ascoltatori. Ora io voglio introdurre un argomento che mi ha molto colpito, devo dire, ma molto colpito già da ieri, quando sul Quotidiano Nazionale ho visto, è stato il primo quotidiano che ha dato grandissimo risalto a questa vicenda, che ora è trattata un po' da tutti i giornali. E vorrei da qui iniziare a lanciare una pagina che poi affronteremo anche nella seconda ora, del rapporto, se volete, anche tra genitori e figli. Parlare di un tema delicato come quello della droga lo si fa a partire da questi due ragazzi di Terni, che fa veramente impressione vedere con le loro facce da adolescenti sui giornali. Flavio e Gianluca, 16 e 15 anni, sono stati trovati senza vita nelle loro case dai rispettivi genitori e a ucciderli sarebbe stato un sorso di metadone che i due ragazzi hanno acquistato, pare, nel senso che la vicenda dell'acquisto c'è stato, bisogna vedere la correlazione, però la procura è abbastanza certa sulla dinamica, da un tossicodipendente che ha rivenduto a loro il metadone che invece lui si poteva procurare dal CERT. Allora io intanto saluto con piacere, torna con noi Giorgia Benusiglio. Giorgia, buongiorno, anzi ciao, buongiorno, ci diamo del tuo, inutile negarlo. Insomma, buongiorno a tutti gli amici da anni. Esatto. Giorgia, da quando nel 99 ebbe una tristissima vicenda personale, perché per mezza pasticca d'ecstasy finì in coma, finì in fin di vita con un trapianto che la salvò, da allora ha trovato la forza per andare in giro in tutta Italia a incontrare migliaia di ragazzi per cercare di spiegare i rischi della droga. Chissà, forse nei tuoi tanti giri avrai incontrato, magari non loro, ma due ragazzini così, certamente. Due ragazzi di famiglie per bene, due ragazzi normali, due ragazzi, no? Che escono, sì, una sera dicendo andiamo, direi, al andiamo al campetto, e poi succede quel che succede. Sì. E i genitori, sai, sono spiazzati. Sì, purtroppo è qualcosa che succede spessissimo. In questo caso ho avuto una triste liaison, mettiamola così. Però purtroppo queste cose avvengono più spesso di quanto si possa immaginare, e purtroppo l'età sta scendendo sempre di più. Io faccio incontri alle scuole medie e alle scuole superiori, e già i ragazzini di 11 anni, 12 anni conoscono bene queste sostanze. Cioè, parliamo anche della Purple Drunk, per esempio, no? Che se ne è accennato anche in questa vicenda, perché insomma, la codeina, no? Mischiata a sciroppo, cioè lo sciroppo per la tosse, che ovviamente c'è dentro la codeina, mischiata con la Sprite, insomma, che è va molto di moda tra i rapper, la trap, eccetera, eccetera. Esatto, guarda, hai toccato, no, hai toccato un aspetto interessantissimo, perché io lo so, anche mio figlio Mattia, 11 anni, canta di questi trapper, sì, i testi, sì, e io glielo dico sempre, quando si parla di boccette, liquidi rosa, di che cosa si sta parlando, ragazzi? Ma parliamoci chiaro, si parla di drogarsi, di bere delle robe, no? Sì. Tipo queste. Beh, la cosa assurda è che spesso in incontri i ragazzi pensano non sia una cosa pericolosa, perché ti dicono è un farmaco, un medicinale, per cui non è pericoloso. E da lì appunto si passa anche alla discussione, magari passano anche mezz'ora, un'ora, perché bisogna andare proprio nello specifico e far comprendere invece quanto possa essere pericoloso. Loro sono estremamente superficiali in questo campo, e riportano frasi appunto estrapolate in canzoni o proprio sentite dagli stessi rapper che raccontano le loro esperienze vissute in questo campo. Il problema è che non c'è assolutamente in agenda, ma forse non di questo governo, da una serie di anni, nei vari governi, il problema. Poi emerge quando ci sono questi fatti di cronaca, il procuratore di Terni dice siamo sconvolti da come ci sia una dimestichezza con la droga fin da una tenera età. Ma è una cosa che tutti coloro come te sanno, in realtà. Beh, e urlano Alessandro, al vento l'anno. Abbiamo parlato non meno di un anno fa, eravamo lì che parlavamo, e poi se dobbiamo andare indietro, quanti interviste abbiamo fatto, quanto mi hai dato spazio, no, per poterne parlare, e sono anni che ne parliamo, per cui non è una novità, solo che nel momento in cui avviene una tragedia se ne deve parlare. Io sarebbe meglio invece poterne parlare prima che avvengano certi drammi, proprio per fare prevenzione, per evitare che accadano determinate cose. Solo ecco, che come se ne può parlare? Tu lo fai nelle scuole, nelle famiglie, cioè un genitore che giustamente non pensa che il proprio figlio di 13, 14, 15 anni che dice vado al campetto vada in realtà a assumere della droga. Cosa deve Guarda, fare? Guarda, io faccio incontri la mattina e poi spesso sono correlati anche alla sera. Se io incontro mediamente 300, 400 studenti, poi dipende, a volte di più, se vengono 100 genitori alla sera, 200 di media, è tanto. E allora è vero che non devono venire entrambi i genitori, però se sono 300 ragazzi, 400, 500, sono pochi questi genitori. Ma perché si pensa sempre che il drogato sia sempre figlio degli altri, che non sia un argomento di proprio interesse. C'è tanta superficialità in merito, si pensa sempre al tossicodipendente, al ragazzo disagiato, e quindi se i genitori non vedono situazioni di allarmismo in casa, pensano di essere esenti da questa problematica. Purtroppo non è così, perché i ragazzini di oggi sono sostanzialmente, ovviamente non tutti, ma quelli che fanno uso di queste sostanze, policonsumatori occasionali. Cosa vuol dire? Che utilizzano diverse sostanze in diverse situazioni, in diversi momenti, quindi non è detto che debbano essere per forza dipendenti da quella sostanza come gli adulti si pensano, si immaginano della sostanza degli anni 80, stile eroina. Sì. Ragazzi possono andare bene a scuola, comportarsi, essere dei bravi ragazzi, andare bene appunto 6 giorni su 7 e poi una serata fare la bravata, e quella bravata può costare la vita. Bisogna lavorare tanto su questo, sull'errore di una sera, di una serata. Io è su questo su cui mi batto da tanti anni, perché tutti sanno che la droga può ucciderti a lungo andare, ma pochi, pochissimi che basta una singola assunzione. E allora bisogna anche sì, lavorare ed è quello su questo, il punto. Sul fatto che è un problema che può veramente sì. coinvolgere tutti, nessuno escluso. Questi ragazzi erano ragazzi per bene, nessuno lo mette in dubbio, ma ricordiamoci anche che i tossicodipendenti spesso e volentieri sono persone normalissime che probabilmente sono anche più sensibili delle persone in generale e che hanno difficoltà a rapportarsi con la vita stessa e che scelgono delle strade alternative per poter respirare, mettiamola così, per poter riuscire certo. ad andare avanti. È ovvio che poi si infilano in un tunnel dal quale poi è difficilissimo uscirne e ovviamente fanno tutto tranne che migliorare la propria vita. Sì, c'è da dire che adesso un ascoltatore dice perché non contattate un trapper, adesso non è che si può dire, i fenomeni sono sempre complessi, trovare una soluzione semplice come dire adesso è colpa dei trapper, non sappiamo neanche se questi ragazzi ascoltassero musica di quel genere, è un fenomeno complesso che riguarda tutti. Così, non bisogna minimizzare così, no? È come quando Lamberto Lucaceni era morto in discoteca e allora bisognava demolizzare la discoteca, no, bisogna arrivare a monte della questione, capire perché avvengono certe cose e come si può fare affinché i ragazzi siano a conoscenza, perché c'è tanta superficialità. Se i ragazzi di oggi sapessero che si può rischiare di morire, tantissimi di loro non lo farebbero, ma se invece passa il messaggio mi sballo, sono figo, faccio una roba figa e non mi succede nulla, questa è un'altra cosa. Se i ragazzini in questo caso di questi due ragazzi, no, che sono stati male, loro sono stati male al campetto di calcio, se avessero avuto un'informazione corretta, gli amici avrebbero chiamato l'ambulanza e li avrebbero portati in ospedale. Probabilmente c'è da dire che secondo la ricostruzione, avrebbero voluto dirlo, poi qui forse è subentrata la vergogna, ma se andiamo al pronto soccorso dobbiamo dire quello che abbiamo fatto. Perché se avessero capito che rischiavano di morire, non ci sarebbero neanche posti queste domande. Loro pensavano che non stessero bene, ma che poi alla fine avrebbero fatto una grossa dormita e si sarebbero ripresi. Se invece ai ragazzi gli si dice che in quel caso potevano avere un collasso cardiaco, un collasso respiratorio, quindi poi cardiaco, avrebbero agito in maniera differente. Invece lì li hanno lasciati andare a casa e quindi a morire, è brutto dirlo, ma è così, per ignoranza, dall'ignoscola di non conoscere. Capito? Forse si sarebbero comportati in maniera diversa gli amici. Questo credo che l'ignoranza, cara Giorgia, vedi, perché c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice dice: e perché allora Giorgia ha preso la pastiglia? Credo che sia la domanda che per una vita Giorgia si è posta. Esatto. E questa domanda, forse una risposta l'hai trovata dopo tanti anni, certo, non lo so. Ma certo, io mi batto per fare prevenzione proprio per questa motivazione. Io non ero abbastanza informata. Se io avessi saputo che bastava mezza pastiglia di ecstasy per poter morire o comunque per poter cambiare la propria vita totalmente, diventare una paziente per il resto della mia vita, non l'avrei mai fatto. È questo quello che sto cercando di dire. Se io ho pensato lo faccio una volta, è ovvio che poi non mi sarei magari fermata quella volta, sarei andata avanti 2, 3, 4, 5, 6 e chi lo sa, magari oggi sarei una tossicodipendente, non lo so, o magari non avrei continuato. Però all'epoca io ho ragionato in maniera estremamente superficiale, dettato dalla mia giovane età, 17 anni. Lo faccio una volta, non succede nulla. E invece non è così. Se io avessi avuto un'informazione corretta, avessi saputo che si può morire anche solo quella volta in cui tu provi, ripeto, non tutti, perché ci sono tanti ragazzi che devono sbattere la testa contro il muro per comprendere certe cose, ma molti di loro avrebbero fatto scelte differenti. Io, per esempio, avrei fatto una scelta diversa. Che si sta parlando, lo dico per gli ascoltatori, lo dice sempre Giorgia Benosilio, si sta parlando di possibilità. È vero, ci saranno quelli che adesso ci scriveranno dicendo ma io ho preso pasticche la vita. Sei stato fortunato, dire, la fortuna c'è e nel caso di Giorgia certamente c'è stata una grandissima sfortuna, legata a quella volta. E tengo a precisare, io non avevo problemi fisici, non ero allergica, non avevo nulla di tutto ciò, perché poi magari si trovano sempre le scusanti del ma sì, lei sarà stata, eccetera, eccetera. Non è così, era una ragazza normalissima come tantissimi altri ragazzi. E diciamocela che nella sfortuna io sono stata estremamente fortunata, perché ci sono tanti ragazzi, ricordiamo, ti ricordi Christel Marcarini, la sciatrice di Bergamo, no? Sì, sì, come no. Anche lei, mezza pastiglia di ecstasy, però purtroppo lei ebbe un edema cerebrale e lì il trapianto al cervello non si può fare, per cui morì. Ce ne sono tantissimi di ragazzi, sì, poi sì, sì. Funziona loro, purtroppo, perché c'è un modo di conoscere le famiglie e quindi il loro dolore. Leggere, no, ma leggere ovviamente la frase che c'è, che campeggia su tutti i giornali, dei genitori straziati di questi due ragazzi a dire ci sembravano lontani da certi giri pericolosi, ha proprio il senso di quello che si cerca di dire. Ognuno pensa che questo problema non possa mai toccarlo in casa, e invece purtroppo è così. Giorgia, io ti ringrazio. Giorgia Benusiglio ha scritto anche tanti libri, l'ultimo credo è Io non smetto, credo, giusto? Dico, dico. Sì, assolutamente sì. Consiglio di leggerlo anche ai genitori, perché Io non smetto parlo proprio anche di Purple Drunk, parlo e do consigli su come riconoscere il proprio figlio se fa uso anche occasionale, quindi nella serata stessa, do tanti piccoli consigli affinché un genitore sia possa essere il più presente possibile, possa rendersi conto anche dell'uso occasionale. Grazie a Giorgia Benusiglio. Andiamo un attimo in pubblicità, un abbraccio ovviamente, c'è l'arrivo poi di Leonardo Manera e torniamo su questo tema con gli ascoltatori, e poi parleremo anche nella seconda ora di un'altra questione che intercetta più gli adolescenti e i social. Uno, nessuno, 100 Milan. Alcuni paesi del terzo mondo hanno il voto elettronico, quindi tu arrivi, c'è una colonnina, uno schermo, scegli il tuo partito, pigi e te ne vai. Semplice, no? Veloce, la colonnina la puoi mettere dove vuoi, basta soltanto che ci sia la guardia di fianco. Era, è uno scandalo, mia moglie è maestra elementare e ancora non sa come e quando inizieranno le lezioni. Milan, per noi gobbi, martedì, serata nera, ma nera, ma nera, ma nera, che tristezza. Questa non è male. Questa non è male, ma nera, ma nera. Buongiorno. Ma nera. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi protestare. Sì. Devo protestare. Attenzione. Contro sì. di te, sì. contro di voi della redazione. Ma perché? Perché, siccome io adesso spiego bene agli ascoltatori che tipo di persone siete voi. Allora, siccome i giorni scorsi io ero lamentato sì. del fatto che l'app non mi il codice per entrare codice. Nell'app della radio non mi veniva mai dato se non dietro mia continua sì. richiesta tutti i giorni da mesi. Ecco, oggi stamattina. Con grande scherno e dileggio mi hanno detto: allora messere, il codice della radio è questo, ha dormito no, bene, una grandissima scusa, presa per il culo, come dire, no, scusa. Guardate questo che si lamenta, prendiamolo un po' per il culo come se fosse il principe, allora principe ha mangiato la brioche, ha fatto quella tele e Miriam Lucchetti, messere che base usa, ma vaffanculo, ma no, guardate come mi prendono no. in giro, mi prendono Leonardo, in giro, no. vengo lì ma e do no. fuoco alla radio adesso, vengo lì, oh bravo Danilo Di Trani, bravo, bravo, bravo. Do fuoco alla radio. Accidenti. Adesso vengo lì via le Monterosa. Cadi! No. Cadi, spacco la testa a tutti, mi taglio i capelli con l'affettatrice, fangulo, spacco la testa. No, no, no, devo dire, scusa, ieri in onda ho detto mi prenderò cura di te personalmente, per ti manderò il codice appena sveglio, e oggi l'ho fatto e ti ho chiesto anche hai dormito bene, sì, ti attendiamo alle 9.30. Il codice è X, invece no, messere, oh, ho dormito, la briochina, la crema, ma una grandissima presa in giro, questo basta. È lo spirito che aleggia nella redazione di Uno Nessuno e 100.000, queste per sono le angherie. E le è per questo che ci vuoi lasciare. Sono sotto. Sì, me ne vado, vado, non vado più. Vado a Radio Bella e Monella. Vado a Radio Bella e Monella. Oh. Va bene, va bene. Quindi. Hai finito lo sfogo? Domani, ho scusa, come sfogo. Te lo devo mandare? Ciao Leo, Ecco il codice, due punti, ecco il codice, basta, sì, basta, secco, senta tutta secco. Questa eccessivi salamelecchi che hanno veramente il sapore della presa in giro pesante. Cioè, questo che si lamenta, ah, questo si lamenta, diamogli il codice a questo qua che si lamenta, no? Così in modo proprio fastidioso, fastidiosamente mieloso. Il miele si appiccica proprio alla bile, ecco, il miele che si appiccica alla bile. Mamma mia, pensavo di farti un bel favore, invece l'hai presa proprio in aceto, come dicono a Roma. Va bene, ci sono due ascoltatori, c'è Walter da Bologna. Buongiorno Walter, eccoci. Buongiorno Milan, buongiorno Leonardo Manera, mi diverto sempre a sentire le sue prese. Stia attento perché oggi Manera morde, Manera morde oggi. Ma va bene, guarda, mordiamo in due Milan, non ti preoccupare, ma per quanto mi riguarda non nei tuoi confronti. Se mi posso permettere di darti il tuo. Sì, sì, certo. Bene, allora, io desideravo segnalare, o perlomeno esprimere un'opinione per quanto riguarda le elezioni. Allora, nessun governo, in tempi passati, ma anche a partire dalla diffusione di internet, non ha mai pensato di dare l'opportunità al popolo, in particolare a quello con disabilità, della quale io faccio parte, io sono non vedente dalla nascita, dà la possibilità di esprimere la propria preferenza online. Ovviamente, come diceva prima l'ascoltatore nel nostro messaggio WhatsApp, cioè un voto elettronico, una cosa semplice. Quello della colonnina però è un po' buffo, invece si possono tentare due cose. Allora, la prima è, vedi, prima si parlava di codice, il Viminale e o il Comune, visto che adesso abbiamo l'identità elettronica, no? Ovviamente io parlo da, tra virgolette, diretto interessato perché lavoro per un ente pubblico. Abbiamo la famosa identità elettronica che ovviamente non tutti sanno usare. Sì, ma si può fare tutto, Walter, sa qual è il problema? Temo che secondo me si temono anche un po' più i brogli. Pensi a un hacker che si impossessa, che riesce a entrare nel sistema e riesce a cambiare i voti, mentre non che non ci possano essere i brogli anche sulle schede a mano, però e anche la segretezza del voto si teme che poi chi vota possa essere in qualche modo identificato. Sì, anche, esatto, cioè tutto lascia traccia sul computer, certo, se uno poi le tracce vuole andare a cercare, però lei Walter, cioè tu, visto che ci chiamano tu Walter, dici si potrebbe fare, il sistema c'è, però non c'è la voglia. Perché dici che non c'è la voglia? Perché non dovrebbe esserci la voglia? Perché nessun governo ha mai voluto fare una sorta, diciamo così, di dibattito, se fosse possibile, se potesse essere possibile, scusate l'emozione, attuare il voto online. E io avrei due soluzioni. Allora, per gli anziani o comunque chi vuole, soprattutto in questo momento con una pandemia in corso, chi vuole gli viene consegnata la scheda, che sto da un vigile, da uno della polizia municipale, da un carabiniere, vota, la riconsegna al carabiniere e siamo a posto così. Insomma, sarebbero io 60. Mi sono trovato in situazioni parecchio imbarazzanti, e parlo per me come non vedente, dove mi sono sentito spesso anche dire: ah, ma lei non vede, vota. Accidenti, se siamo a questo livello addirittura, questo è abbastanza incredibile. No. Walter, guarda, no, è perché così do spazio anche a Luca dalla provincia di Modena. È interessante, insomma, secondo me è più la questione della segretezza del voto, come diceva Leonardo, o del rischio brogli, no? Quello del voto online, mettiamo così. Luca, ce la fa dalla provincia di Modena, prima del traffico? Salve, buongiorno. Sì, eccoci. E volevo fare un intervento rispetto al tema delle sostanze stupefacenti e al discorso che è stato fatto prima, perché secondo me non si dà spazio a due parti del discorso che io trovo molto importanti. Secondo me la prima è il fatto che si parli di droghe in generale, e questo dà la sensazione, secondo me, soprattutto ai ragazzi più piccoli. Poi io parlo da ventenne, quindi non sono un uomo vissuto, però comunque io conosco magari ragazzi più piccoli che o da un lato o dall'altro pensano che tutte le droghe siano uguali, no? Quindi che una valga l'altra, e quindi questo discorso è sempre un po' dannoso, perché se tutto è pericoloso allora nulla è pericoloso. E l'altro punto è che non è, diciamo, dato spazio al discorso, e so che questo, diciamo, è un po' più controverso e magari non riesco a trovare delle persone che la vedono come me, però anche al consumo consapevole, perché è una di quelle cose, l'utilizzo delle sostanze che accade. E quindi se una persona poi... consapevole, cioè dire, invece di dire di fare questo atteggiamento censorio, se posso permettermi, Luca, dire educare all'uso consapevole. Non nel caso della droga che hanno assunto i ragazzi, però, no? O del mix di droghe, immagino. Beh, però bisogna capire che se davvero il metadone che loro hanno assunto arriva dal CERT, il metadone da solo non può produrre gli effetti di avvelenamento. No, certo, però secondo me questo deriva anche da una diciamo non consapevolezza degli utilizzatori, che non... magari non sanno, ma perché sì. Comunque io a scuola l'ho fatta l'educazione sulle sostanze, però è una cosa assolutamente non sufficiente. Ma non c'è dubbio, Luca, cioè io non lo so, adesso si faranno gli esami tossicologici, si faranno le autopsie, credo, non so che cosa abbiano assunto insieme al metadone, non lo so, però è chiaro che probabilmente non lo hanno fatto senza la consapevolezza che questo mix li avrebbe portati a questo, altrimenti, come diceva Giorgio Benusilio, seppure uno ha 15 anni, ma se sa rischio di morire, non credo che sia così infelice nel dire ok, lo faccio lo stesso rischiando di morire. Quindi la mancanza di consapevolezza c'era, secondo me, in questi ragazzi quando hanno assunto quello che hanno assunto. Dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. E Miriam Lucchetti, messere, che base usa? Ma vaffanculo! Nonostante questa crisi abbia picchiato duro, nonostante un futuro che sembra si sia fermato, nonostante poche agevolazioni e tante complicazioni, nonostante tutto quello che è stato fatto per scoraggiarmi, io sono ripartito. Sono un imprenditore, sono un artigiano e per fortuna non sono solo. CNA è al tuo fianco per ripartire. Guardiamo avanti, insieme. CNA.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Ehi, Milan, se stamattina non esce fuori la Fusconi, se non fai uscire Elisabetta, vengo lì. Vabbè, il nostro ascoltatore. Comunque devo dire, effettivamente, il messaggio che ha fatto infuriare Leonardo Manera questa mattina è stato che Miriam Lucchetti, adesso recupero la chat della trasmissione, dopo il codice mandato da me e Leonardo ha ringraziato, Miriam Lucchetti ha scritto: quale base intende usar? Di grazia. Effettivamente, però tu hai mandato Miriam Lucchetti là dove non si deve mandare nessuno, in maniera molto fastidiosa. Insomma, un'evidente presa in giro, diciamo. Ecco, comunque, uno poi è responsabile delle proprie azioni. Io mi assumo la mia responsabilità. Miriam Lucchetti si assuma le sue, ecco, per questo atteggiamento veramente fastidioso, sgradevole si può dire, dai, di dileggio sgradevole, un po' è sano dileggio mattutino, dai, noi lo facciamo per sgradevole, tenerti vivo. Sgradevole, prego, sii gradevole. Allora, tu adesso. Pagina 20 del Corriere della Sera di ieri, mercoledì 8 luglio 2020, titolo: frasi shock in sala operatoria, un primario sospeso per gli insulti omofobi. Pare che questo primario, il 25 marzo scorso, all'ospedale di Cittiglio, in zona Lago Maggiore, accingendosi a operare un paziente, riporto quanto scritto appunto dal Corriere, questo primario avrebbe detto: ma guardate, se io devo operare un di M puntini, siero positivo del C puntini, avete capito? A quel punto un anestesista, dichiaratosi omosessuale, ha protestato per quelle incredibili dichiarazioni e altrettanto incredibilmente è stato allontanato, questo anestesista, dalla sala operatoria solo perché aveva protestato. Senza entrare nel merito della questione, questo episodio è emblematico del fatto che non si può mai generalizzare. In questo periodo di coronavirus tutti i medici, tutto il personale ospedaliero è stato molto sotto pressione ed è giustamente stato elogiato da tutti. Poi però ti capita un primario come quello sopracitato che si lancia in quelle dichiarazioni di fronte a un paziente che necessitava di un'operazione. Anche a me anni fa capitò un episodio spiacevole. Ero in ospedale per un'operazione a una gamba, l'asportazione della vena safena, con anestesia spinale, quindi ero ben sveglio e sentivo tutto. A un certo punto il medico che mi operava disse testualmente: «Mi sono rotto i coglpuntini», ecco, di questa operazione. Non c'è nessuno che può andare avanti, con assoluta mancanza di rispetto verso il sottoscritto che appunto sentiva tutto. Lui, quel gran medico, se ne andò senza terminare l'operazione, che fu poi conclusa da un altro camice bianco che quasi passava di lì per caso. Ebbi poi anche alcuni problemi, non si sa se legati al cambio di bisturi e manovratore. Quali sono allora i medici che dobbiamo elogiare? I medici di base che hanno tenuto aperto lo studio e hanno visitato i pazienti anche nei mesi più duri del coronavirus, oppure quelli che sono spariti e che hanno continuato a percepire lo stipendio? Quelli che si sono sacrificati negli ospedali anche senza protezioni e che magari non ci sono più, oppure quelli che si sono dati alla macchia? Anche tra i medici, come in tutte le categorie, ci sono persone e persone. Eppure sono tutti medici, tutti laureati, tutti con un bel camice bianco. Lo stesso vale per i magistrati, lo stesso direi vale per tutte le professioni che hanno a che fare, a vario titolo, con la vita delle persone. Quando ci si iscrive a medicina si danno gli esami di anatomia, fisiologia e tutto il resto. A giurisprudenza si dà diritto privato, diritto costituzionale e tutti gli altri. Manca però in tutte queste facoltà l'esame di empatia, che dovrebbe essere propedeutico a tutti gli altri. Alcuni di questi professionisti l'empatia ce l'hanno di natura e allora andrà per sempre la nostra gratitudine. A quelli che invece amano astrattamente il genere umano ma disprezzano le persone, suggerirei di cambiare lavoro. L'empatia è quella cosa che fa sempre la differenza, anche se sembra che non serva più nemmeno nei rapporti umani. Bisogna solo essere performanti, vincenti, sempre di buon umore per non suscitare nessun tipo di pensiero negli altri e soprattutto stare sempre bene, in una rassicurante normalità. Perché la diversità vera o presunta che sia spaventa sempre un po' e allora si può essere presi a male parole, come da quel chirurgo di Cittiglio oppure da qualche bravo cittadino onesto che vive in modo perfettamente integrato nelle nostre più o meno rassicuranti città. Oh, arrivano ben tre, bravo Manera, grande Manera, alcuni in maiuscola addirittura, non si capisce se per il tuo pezzo o per la tua reazione mattutina, che francamente devo dire è esagerata. Io voglio pensare che siano Leo, legati al tuo pezzo. Leo, ti sei svegliato male senza la tua zucchina nel frigo, eh? Ti faceva tanta compagnia, Leo, immagino, deve essere dura veramente, ti comprendo. Sì, la zucchina purtroppo, ecco, lo sapete, ha trovato la sua fine. La sua conclusione di vita. Non è anche che per questo Fred... che sei un po' nervoso questa mattina. Sei un po' nervoso. Un po' sì. Mi ero affezionato alla mia zucchina. Insomma, sai, anche l'amico Francesco. Non è che per questo ci deve andare di mezzo Miriam Lucchetti. No, ma se Miriam Lucchetti mandasse dei messaggi, diciamo, meno ecco. Allora non avrebbe reazione di quel tipo. Secondo voi, ripeto, Miriam Lucchetti che manda a Leonardo Manera un messaggio un po' polemico a dire che base intende usar di grazia? Merita anche la reazione isterica di Leonardo Manera, sì o no? Ecco, allora, dovresti leggere anche il tuo messaggio. Adesso lo leggo dopo il rientro dal giornale radio. Intanto mettiamo un po' di zizzania tra te e Miriam Lucchetti, poi dopo vediamo come ce la caviamo. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, ma c'è del tenero tra Manera e Mira Lucchetti? Ciao, state grossi. Simone da Firenze, effettivamente Miriam Lucchetti un po' maestrina col ditino lo è, eh? Tutta la solidarietà possibile al grande Leonardo. Manera, è per quello che gusti poco, non si reagisce così a un'affermazione anche simpatica di una tua collega di lavoro, scusa, eh? Ma è il modo di reagire, poverina, brutto. Allora ragazzi, da quando me l'avete fatto notare ho realizzato che la mia cassiera usa il metodo Lucchetti per non fare niente ogni giorno. E vi dirò anche una cosa in più, che fondamentale per il metodo Lucchetti è parlare da soli. Se tu fai finta di fare qualcosa, intanto parli da solo e dici che hai detto? No, niente, parlavo da solo. Quello è il top. La combo perfetta. Vabbè, Leonardo, i nostri ascoltatori sono divisi, secondo me sei stato un po' duro. Mi sembra che c'è una netta maggioranza a mio favore, perché tra l'altro il messaggio di Miriam Lucchetti si sommava a quello che già avevi mandato tu. Io ti avevo mandato un messaggio: caro Leonardo, il tuo codice per la diretta di oggi è segue codice, spero tu abbia riposato bene, ti attendiamo con gioia e a braccia aperte alle 9.30, buon caffè. Ecco, ditemi voi se non sa di presa in giro, poi dipende sempre come si leggono le cose. È un'estrema gentilezza. Il tuo codice per la diretta di oggi è... No, notate la risposta di Leonardo. Bene. Grazie, molto gentile, ringrazio infinitamente. Tu hai risposto, quindi anche tu mi avresti preso in giro. Certo. A quel punto è arrivato l'asse calato in una partita a scopa da Miriam Lucchetti. Quale base intende usare? Di grazia, dandoti un'evidente presa in giro. Come questo si lamenta che non gli diamo il codice? Ma sì, prendiamolo un po' in giro questo mentecatto. Ma vaffanculo. Questo era Manera, oggi si è svegliato così. Vabbè. Signori, c'è Giorgio da Milano. Guarda, non lo so, c'è un Leonardo Manera proprio tignoso oggi. Giorgio, eccoci, buongiorno. Buongiorno Milan. Due osservazioni. La prima in merito a quello che faceva osservare la scrittrice di cui non ricordo il nome. Sì, Giorgio, cioè, Benusiglio, che, sì. Esatto. Cioè, il tossicodipendente cronico è un gestore molto più attento ai rischi dei farmaci stupefacenti e quindi sa dosare i farmaci molto meglio di colui che lo assume in maniera saltuaria, dicevate voi, non conosce i rischi pericolosissimi, tra cui il metadone. 14, il metadone, che è uno stupefacente potentissimo, molto più potente della morfina, di per sé da solo può determinare l'arresto respiratorio, improvviso, acutissimo. E dall'arresto respiratorio si passa ovviamente all'arresto cardiaco e quindi la morte. Io faccio il medico, faccio il rianimatore. Mi è capitato nel corso della mia vita professionale di salvare la pelle di ben due ragazzi in maniera totalmente fortuita, perché un giorno venne la sorella di uno di questi due ragazzi, che trovò il fratello disteso con ancora la siringa nel braccio nel salotto di casa. Mi venne a suonare il campanello e siccome io avevo nella borsa del medico, io faccio il medico, il naloxone, che è l'antidoto alla morfina e al metadone, gli feci per fortuna una puntura in dovena e questo riprese a respirare. Sì. Punto. Però se non si ha a disposizione in maniera... cioè forse chiunque potrebbe avere... questo volevo dire. Quindi colui che prende il farmaco in maniera saltuaria assolutamente si espone a un rischio gravissimo, rischi alla pelle, assolutamente. Giorgio, grazie per questo intervento. Vorrei andare in provincia di Grosseto da Luisa. Buongiorno Luisa. Buongiorno Alessandro, vi ascolto continuamente, bravi e grazie. Sì, io volevo portare una piccolissima testimonianza, se così si può dire. Io ho 62 anni, sono nonna di una ragazza di 17, di 14 e ho vissuto la mia adolescenza negli anni 70, sono del 58, e ho visto quando la droga è cominciata ad arrivare anche nella provincia, a Grosseto, in Grosseto, e ho visto quindi farsi i primi ragazzi di eroina che non erano mai fatti, e li ho visti fare anche tante tante brutte fini che erano miei amici. Io ero impegnata politicamente e quindi la mia, ovviamente a sinistra, e quindi la mia scelta è stata di tutt'altro natura. Ho una figlia di 42 anni, io in vita mia non ho mai dato per scontato che chiunque fosse vicino a me, mia figlia e le mie nipoti oggi, non potessero fare uso di tossico di essere tossicodipendenti. Certo, e quindi avrà parlato. Ho parlato in continuazione con queste ragazze, anche perché le ho cresciute, in continuazione di quello che è il mondo esterno e di che cosa vuol dire assumere farmaci di vario tipo fino alla tossicodipendenza, tant'è che oggi una fa il liceo artistico, una fa il grafico. Mi raccontano dei loro compagni che fanno uso, mi dicono nonna, sì, quello è un tossicodipendente, quello è quell'altro, quello fa uso di questo, noi parliamo chiaramente, e io gli dico sempre che è una questione di scelta, è una questione di come noi ci poniamo di fronte alle problematiche della vita, di fronte a quello che abbiamo l'opzione di scegliere di farsi o di non farsi. Cosa vuol dire? E certo, è una questione di scelta, e se mi permette, appunto, come dice, anche di parlare con i figli o nipoti, insomma, parlare con i propri figli. Allora, a proposito di scelte, a proposito di rapporti con gli adolescenti, dopo il traffico invece vi vogliamo raccontare, nel ringraziare Luisa della provincia di Grosseto, di un nuovo gioco, insomma, io dico un nome, Jonathan Galindo, ecco, sui giornali ne parlano da qualche giorno, alcuni giornali, sembra la nuova Blue Whale, voi dite ma è impazzito con questi temi, cercheremo di spiegare tutto tra poco, dopo il traffico. Ma quello è Mario, che cosa ha fatto ai capelli? Sembrano così forti e vitali. È proprio lui, si è rivolto ai professionisti della Sanders. Caspita, con loro puoi fare trattamenti naturali e il test genetico. Fanno pure il trapianto capelli con tecniche innovative. Istituto Elvetico Sanders, siamo in tutta Italia. Chiama subito e prenota la tua analisi gratuita. Numero verde 800 283838. Istituto Elvetico Sanders, da sempre naturali alleati dei tuoi capelli. Per trapianto autorizzazione regionale Umbria 13388-18, direttore sanitario dottor Mazzeo. Uno, nessuno, 100 Milan. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Allora, signori, sono le 10:18 minuti. Siamo in diretta qui su Radio 24. Oggi e adesso vogliamo parlare di un tema che riguarda gli adolescenti. Per questo, io, insomma, l'ospite ce l'ho anche in casa, che è mia figlia Angelica, che mi è venuta a trovare. Ciao Angelica. Ciao. Buongiorno. Intanto ti volevo chiedere se hai seguito tutta la discussione tra Leonardo Manera e Miriam Lucchetti. Secondo te chi ha ragione tra Leonardo e Miriam? Miriam. Vabbè. Ecco. Non ha seguito bene, vabbè, mi spiace dirlo, ma non ha seguito bene. Poi tu l'avrai condizionata. No, ragione Miriam. Ti ho detto per caso di dire che aveva ragione Miriam, Angelica. Sì. Allora, la sincerità dei ragazzini, guarda, non sa cosa rispondere, perché è ovvio che le ho detto. Gliel'hai suggerito, certo. Ovvio, ma guarda che padre ovvio. Disgustoso, veramente. Allora, adesso dobbiamo parlare di questa cosa che è uscita sui giornali. E che, per la verità, Angelica qualche giorno fa mi ha detto, papà, guarda, tu sai chi è Jonathan Galindo? Io gli ho detto, no, guarda, non conosco nessuno con questo nome. Chi è Jonathan Galindo, Angelica? Allora, Jonathan Galindo è ovviamente un nome fake, che è questa persona che posta su Instagram e su TikTok delle foto di un'altra persona con la maschera di Topolino Pluto deformato. E l'inventore di questa maschera in verità aveva detto che la maschera non voleva spaventare ma far ridere, però poi la situazione gli è sfuggita di mano. E questo Jonathan Galindo, o meglio questo nome, questi profili falsi contattano gli adolescenti? Sì. E chiedono che cosa? Allora, loro chiedono agli adolescenti: vuoi giocare? Però non ti dicono che gioco. Se tu gli dici sì, ti dicono i 50 obblighi della Blue Whale. della Blue Whale Challenge. Questi obblighi sono, per esempio? Soprattutto tagliarsi e magari anche incidersi una balena sul braccio. Accidenti. E, allora, ovviamente io sono tutti profili che non possono essere rintracciati. Sì. Esatto. Ma credo che sia nata molto in Brasile, in Spagna. Sì, la maschera, poi la maschera, le foto non sono recenti, sono di anni fa. Allora, salutiamo Maura Manca, che torna con noi, psicoterapeuta dell'età evolutiva, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Buongiorno, dottoressa Manca. Eccoci. Buongiorno Alessandro, buongiorno Angelica, buongiorno. Eccoci. Questa è la nuova, ecco, si dice moda, in realtà, chiariamo, non c'è niente di vero, è tutto falso. Intanto mi verrebbe a dire, ma lei è riuscita mai a entrare nella testa di chi può generare questo tipo di gioco, tra virgolette, per terrorizzare dei ragazzi sensibili? Cioè, qual è lo scopo di chi lo fa? Il problema non è chi lo fa, nel senso parlando con al singolare, perché fondamentalmente queste che vengono chiamati giochi, challenge, che diventano quasi sfide per i ragazzi, nascono molto spesso, sono nate per gioco, per divertimento, come proprio in questo caso, che fanno leva un po' su che cosa? Sulle paure, quindi creare un po' come era Samara, che richiamava il personaggio di un film horror o altre, sì, challenge Ring, di queste, quindi per fare leva sull'impressionabilità dei ragazzi, sulle loro paure e diventare virali. Quello che a me, sì, preoccupa è che io mi sono anche imbattuta negli studi che facciamo noi, è che poi ci sono delle persone che sfruttano queste challenge, questi giochi e queste sfide creando degli altri profili, perché se oggi andiamo a cercare Jonathan Galindo ci sono centinaia di profili, quindi centinaia di persone che nascoste dietro questo nome o hashtag, che quindi usano la viralità del web, che cosa fanno? Adescano magari anche i più piccoli, adescano i bambini o manipolano gli adolescenti più vulnerabili, più sensibili. Più sensibili. Il problema non è tanto quindi la moda, tra virgolette, di turno, ma l'uso che personalità anche sadiche, quindi diventi distorte di ragazzi o di adulti, sfruttano per poi fare leva sui ragazzi. Per cui io quello che dico è: attenzione anche a dire con estrema superficialità è una bufala oppure non è un problema, non è niente, perché dietro ci sono anche persone disturbate. Per cui sì, questo, la è cosa... vero, questo è vero. Esatto, quindi è vero che nasce nel 2012 questo personaggio creato dentro gli studi dove si fanno le maschere col silicone, le prove, e che sono state rubate. È diventato virale adesso, cioè poi sì, un fenomeno si impone quando diventa virale, quando... Che nel web è molto facile, esatto, perché basta, sì, che ci siano delle condivisioni fra gruppi o ragazzi, per cui dopo la moda significa questo, lo condivido, quindi inizio a condividerlo anche io, guarda che cosa ha condiviso, quello l'ha condiviso, sì, e diventa virale. Quando diventa virale, No, credo, dottoressa, credo, Angelica mi diceva che a qualche amica è arrivato, no, questa richiesta di Jonathan Galindo. Cioè, sì, anche a me è capitato di trovare ragazzi, esatto, come nella Blue Whale prima o in altre sfide di mode di questo tipo. Quando arrivano questi messaggi, significa che ci sono appunto delle persone che stanno distorcendo quella moda e la stanno sfruttando per altre modalità, per cui bisogna segnalare immediatamente quel profilo, non aprire quei messaggi, ma fermare, sì, non cancellare, perché se noi lo cancelliamo, quel profilo dove c'è una persona dietro, i profili non si muovono da soli, i profili sono mossi da persone, quindi, certo, quella persona va segnalata immediatamente o a TikTok o a Instagram e in base alle richieste che fa anche alla polizia postale, basta andare online e oggi è anonima. Fa la segnalazione. Io vorrei sapere da Angelica, ma cos'è che fa paura di tutto questo? Cioè, parlando anche con le amiche, cioè, allora, soprattutto anche se è una maschera fa comunque paura, mm-hmm, cioè proprio l'immagine sembra che la maschera sia attaccata alla faccia, no? Ok. E poi perché mette non mette solo foto ma anche video per cercare proprio di spaventarti, si avvicina alla telecamera, capito? Certo. E poi c'è anche questa cosa che si è diffusa, ovviamente io l'ho tranquillizzata a dire, ma se poi uno non risponde ti rintraccia l'indirizzo e viene a casa addirittura questa, no? Angelica adesso ride, ma in realtà molti adolescenti insomma temono anche questo, che non è vero, in realtà non accade. Leo, che... No, dicevo che se effettivamente è una cosa che fa paura ai ragazzi e adolescenti, come mai poi c'è questa diffusione anche virale? Perché in qualche modo diventa una moda, però è una moda che fa paura, quindi non si spiega bene come il terrore attrae, se possibile. Un pochino, no? Probabilmente sì. Per quello. Il terrore, io mi ricordo Nightmare ai tempi miei, quando ero piccolina, che ci spaventava da morire, eppure continuavamo a cercare il film, a guardarlo, perché è una sorta di è un modo per esorcizzare un po' anche le nostre paure, cioè attrae per quel motivo, e poi fa leva su delle immagini familiari, questa è una sorta di pippo che richiama quelle fantasie, quei cartoni, quelle immagini che in teoria non dovrebbero far del male, ma e invece poi diventano spaventose, ma un po' come fa leva la bambola assassina o il pagliaccio It, cioè vanno a richiamare quelle che sono le cose del divertimento e del piacere, le trasformano in horror. Quindi questi video di Jonathan Galindo sono video appunto che giocano su vicinanza, come ha detto benissimo Angelica, allontananza dalla telecamera, deformazione della faccia col silicone, certi tipi di scherzi che si fanno tra di loro dove si fanno del male, che attraggono da un lato e spaventano dall'altro. E la leva è proprio questa, sull'attrazione. Nel momento in cui tu sei attratto ti incolli davanti allo schermo, se tu ti incolli lì io poi ti acchiappo. Quindi attenzione, e vanno eliminati prima che si attivi questo meccanismo mentale. Eliminate sempre, che i figli ne parlino, sempre che sì, i figli, esatto, ne parlino. Ma infatti a me ha fatto piacere, molto, molto piacere, perché ieri era sul quotidiano nazionale, ma due giorni prima Angelica me l'aveva detto, cioè me ne aveva parlato. Io non sapevo niente di questo Jonathan Galindo, colpevolmente, però l'importanza è questa, insomma. E infatti volevo pubblicamente dire grazie ad Angelica che mi ha parlato di questa cosa, anche perché così almeno abbiamo fatto un pezzo di trasmissione, grazie. Hai lavorato gratis per Radio 24, oggi. No, sorride, però l'importanza è sempre questa, professor Samanca, perché parlarne esatto. Cercare insomma di la prevenzione è questa, nel senso che se noi adulti non abbiamo cioè un adulto, come appunto abbiamo detto adesso, lo sa o attraverso i ragazzi direttamente, e per fortuna che Angelica ha parlato con lei, ma quanti ragazzi possono condividere questo con i genitori? Se invece chi fa informazione, fa un'informazione fatta bene, non allarmistica e non del terrore, ma semplicemente spiegare i fenomeni, perché ribadisco, anche il nascondere tutto è sbagliato, perché comunque dietro quei profili ci sono anche menti distorte. Allora, se noi facciamo capire ai ragazzi questo tipo di problema e ai genitori, riusciamo a prevenire, altrimenti se non ne parliamo ci troviamo sempre dopo a dover risolvere dei problemi che purtroppo però sono già accadute, situazioni già accadute. Sì. Dottoressa, ma io ho una domanda per la dottoressa, ma da parte degli adolescenti avere dei segreti rispetto ai genitori non fa parte anche di un momento di crescita, non segreti di questo tipo che ovviamente sono pericolosi, ma di altro tipo, cioè avere una parte per sé che non viene resa nota ai genitori non è una cosa fisiologica e che fa anche parte della crescita? Assolutamente sì, e ci deve essere, anzi dall'altra parte il genitore che pretende che il figlio gli dica tutto e che condivida tutto diventa un ruolo più di amicizia piuttosto che un ruolo di genitore e figlio, cioè quello è anche un'identità propria, è un crescere, però bisogna far capire che un segreto è un qualcosa di personale, di individuale, magari legato a un amore, legato a dei sentimenti personali o a delle varie situazioni, ma quando c'è una condizione di potenziale pericolo o di potenziale rischio o che non si comprende, allora lì serve l'adulto, perché se no non è più un segreto, è una condizione che può ritorcersi contro. Il segreto è proprio tipico dell'adolescenza, di quello che stanno vivendo loro, che è giusto che rimanga tra loro. Questo è estremamente importante, ma per esempio in questi casi se qualcuno viene contattato e gli si scrive determinate cose come questi giochi e quant'altro, non è un segreto, è omettere delle condizioni di rischio, quindi in questa condizione è bene parlare. Bisogna, per quello che riguarda la vita privata, assolutamente è giusto, è fisiologico ed è importante per la crescita. Allora, noi ringraziamo Maura Manca, psicoterapeuta dell'età evolutiva, cara Angelica, quindi se abbasso Jonathan Galindo, non facciamoci impressionare se capita, ma giustamente bisogna parlarne. Sei sempre convinta che abbia ragione Miriam rispetto, ripeto, Miriam rispetto a Leonardo Manera? Cioè tu stai dalla parte di Miriam Lucchetti, mi sembra, no? Di capire, confermi o hai cambiato idea in questi minuti? Un padre. Cosa dici? Adesso da democristiana è entrata in un silenzio. Mutismo selettivo, va bene. Va bene. Caro Leonardo, sei riuscito a comprartela da questi pochi faccio minuti. Solo notare le tue caratteristiche di padre, poi ognuno può giudicare serenamente. Va bene, andiamo a sentire La Borsa, un grande grazie anche ad Angelica, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Vai Manera, picchia duro così, vai Leo, come il centrocampista Fabbro che sei, vai! Manera, fai attenzione perché la Lucchetti, se la fai arrabbiare, quello zucchino dal frigorifero potrebbe spostarlo in un altro luogo. Adesso addirittura. Manera è bullizzato, sì, sicuramente sì. Bullizzato, io sto sempre dalla sua parte, basta che mi chiami e gli do una mano. Ma dai, ho subito del mobbing. Sì, sono oggetto di mobbing purtroppo. Sì, mobbing sì. Ma da non parte dalla di radio, nessuno dalla accetta. Redazione all'interno della radio, ti vuole anche bene. Da te, sì. Da te, sì. E da, adesso da te e dalla redazione di Uno Nessuno 100.000. Ma come titolo che, ma peraltro, ne... ricordo, titolo che ho inventato hai io. Creato tu. Ricordo certo, anche tu. Questo. No. Ma noi vedi che lo diciamo, mica siamo qui a dire sì, il titolo no, tuo adesso. Nonostante io abbia avuto anche qualche merito. Sì, però invece sì. Vengo sempre bullizzato titolo, e, fa, e fatto oggetto di mobbing peraltro. Titolo un po' esoso, titolo allora, arrogante tipo, allora titolo... trovane uno tu migliore. Ne avrò mandati 100. Ne avrò mandati 100. Quando bisognava decidere il titolo, oggi, ogni giorno oggi gli manda... sta sfogando un anno di rabbia repressa. Niente. Allora, avrò mandato 100 titoli possibili, ma veramente 100, non sto scherzando. 100, un 100 no, ma 60 sì. E lui diceva, ma questo... quelli che giudicano sì, senza proporre. Certo no? Mandava i titoli così, via libera, aria, ora d'aria, aria in un'ora, aria... aria in un'ora, certo, aria, certo, ora d'aria, certo, minuti facevo d'aria. Facevo brainstorming, si fa così per sì. Inventare le cose. Ma e ma lui era lì a giudicare, ma questo no, ma non mi convince. Sai quelli che niente, giudicano che senza proporre. Vuoi dire qualcosa a Elisabetta Fusconi anche oggi? No, Elisabetta Fusconi invece la vedo dalla mia parte, perché vedo che lei ormai ha capito anche tu come sei, quindi... si limita allo stretto necessario, ha detto vabbè Alessandro Milan è così, accettiamolo per quello che è e non andiamo oltre, sì, facciamo lavoriamo il insieme lavoro. Solo credo da 15 sì. Anni se non di più infatti, sì perché ha capito quindi, come sei quindi Fusconi sta con te e Lorenzo Nespoli quest'uomo silenzioso che lavora nell'ombra un po' così. Ma Lorenzo Nespoli non riesco veramente a parlarne male perché è simpatico a mio figlio. Ci sarebbero molte cose da dire su Lorenzo Nespoli. Io lo trovo una persona disgustosa, ma non posso dirlo per... ma come disgustosa? Beh, tanto sì, ma tutto... siccome lui così lo porto dalla mia parte. Ottimo, vai avanti, sì. Vai avanti. Sì. No, siccome lui ha fatto una ecco, la cosa veramente spiacevole che ha fatto Lorenzo Nespoli, cosa ha fatto? Ha cercato di accaparrarsi la fiducia di mio figlio Beniamino attraverso di lui per cercare di essere simpatico anche a me, la cosa peggiore che si possa fare, quindi in genere si faceva con le fidanzate, prima le mamme, sì, così. Perché? Ma perché Lorenzo Nespoli ha fatto così? Perché ha pensato, così così anche se la mattina non gli mando il codice, chi se ne frega, saranno ben fatti suoi, tanto non può dirmi niente, Beniamino, perché è simpatico a mio figlio Beniamino. Vabbè, di Miriam Lucchetti inutile parlare, abbiamo già detto. Di Miriam Lucchetti si sa, oggi proprio. Va bene, Francesco da Milano, buongiorno, eccoci Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Competente? Sì. Bene, sì. Ascolti, una cosa veloce perché tra l'altro sto anche guidando. Bene, vai. Mi volevo collegare al primo intervento di quella povera ragazza che si è fatto il coma dopo aver assunto... Sì, sì. Voglio dire, è giusto informare, ma non riesco a capire... Cosa si insiste sul dire che bisogna fare informazione, spiegare? Ma quando una persona capace di intendere e di volere, chiaramente, gli hai detto che fare una cosa si muore, dopodiché, se vogliamo, possiamo parlare... C'è il libero arbitrio, lei dice, no, dopodiché c'è il libero arbitrio. Io capisco i figli che bisogna sempre stargli addosso, sì, perché non è mai sufficiente. Però il fatto di parlarne, o gliene parli tutti i momenti e poi ti risulti che sei noioso e te li fanno per dispetto le cose, o se no, bisogna ma non c'è una ricetta, Francesco, non c'è una ricetta precisa, diciamo, bisogna parlarne e dopodiché bisogna anche ascoltare, forse, ascoltare non solo se ne vogliono parlare, ma anche... osservarli i figli, i comportamenti, o lo dico io che mica perché so farlo, cioè dico, nessuna ricetta, forse. Cioè anche intercettare dei disagi, capirli, vederli bene, ecco, questo vuol dire un dialogo continuo, non è che uno gli dice, che ne so, a 13 anni, 11 anni, si fa così, così non si fa, punto, basta, finito, ho fatto il mio dovere. Sai qual è? Però forse continuo, la cosa che bisognerebbe cercare di fare, poi è difficile riuscirsi, ma insomma è costruire un dialogo nel corso della vita, da quando il bambino nasce, poi andando avanti, cercare di avere un dialogo, un confronto, cercare. Poi è chiaro quello. Che c'è il libero arbitrio, poi, cioè i figli sono diversi da noi, sono persone senzienti e intelligenti e quindi decidono della loro vita, questo sì, c'è anche una componente di, come dire, di totale libertà, non c'è dubbio. La Filippo? Cosa sicura è che tutti vengono a contatto con le droghe. Io sì, credo che ormai sì, tutti gli adolescenti... O direttamente o con amici. O certo. Sì. Filippo, provincia di Vercelli, vai. Buongiorno, senta, io volevo parlarle dell'identità digitale. Ho sentito che sì, si proponeva il voto in identità digitale. Io è la terza volta che faccio questo calvario. Due volte per avere quella di mio nonno. Questa volta devo avere la mia identità digitale. C'è il coronavirus, ho detto faccio tutto online, prima era un calvario tra Camera di Commercio e Corrieri che non arrivavano, faccio tutto online, mi iscrivo al sito, chiedo l'identità digitale ma devo avere un'altra identità digitale per confermarla, allora cosa succede? Mi dicono dal sito di scaricarmi un'app, questa app dopo 30 minuti di attesa crasha su tutti i telefoni che l'ho installata, allora cosa faccio? Io vado all'ASL a prendere una firma sulla mia tessera sanitaria che sì, si rovina, la tieni nel portafoglio e tutto, voglio la tessera da tenere in ufficio, mi danno sì, solo la metà dei codici, l'altra metà me le spediranno per email. Lei si immagini allora tutto il popolo italiano che ad un certo punto decide di avere queste firme digitali? Sì, sarebbe un casino. È una cosa che ci vanno 30 giorni per riuscire ad averla. Sì, di sì, fatica. In più io volevo fare un appello. Trovassi un hacker che fa il mio lavoro, poi io gliela lascio la firma digitale. Perché Filippo? No, anche gratis, anche gratis. Anche gratis, deve solo fa un appello, Filippo cerca cercasi hacker per Filippo, è pronto a dare la sua esatto, con la firma digitale, identità digitale, però questo hacker deve fare il lavoro sporco, quello che Filippo sì, è costretto a fare con perdite di tempo enormi, cercasi hacker per Filippo, scherzo ovviamente, però Filippo da provincia di Vercelli è stato simpaticissimo anche nel raccontare le vicissitudini, sì, anch'io conosco un paio di persone che per avere che poi la SPID, questa famosa SPID, sono impazzite. Io in questi casi faccio come Manera, rinuncio a priori e poi mi ritroverò, quando avrò il problema di avere per forza la SPID, ad affrontare questo grave problema, a non dormire la notte, cioè, per il momento rinuncio, Io rinuncio. Ti ricordi che rinuncio, è la regola delle due R, rinuncio e rimando. RR. Rinuncio e rimando poco, perché poi quello mi mette ansia. Rinuncio sicuramente, rinuncio. No, non ce l'ho fatta in tre secondi, rinuncio. E poi dopo, ma ti servirà prima o poi. Rinuncio per ora. Traffico. Rinuncio. Anche mia madre diceva sempre così, rinuncia. Esatto, vedi. Uno, nessuno, 100 Milan. Grazie Mila, grazie veramente. Ho due figli adolescenti e sicuramente oggi a pranzo parlerò di Galindo con loro. Grazie ancora. Oh, bene, bene. Ma ne era una vera sardina, non ti avrebbe trattato così, ricordaglielo. E vorrei sapere dall'ascoltatore di prima se poi ci fa sapere quello che parlerà a pranzo di Jonathan Galindo, se gli adolescenti ne sanno, se dicono ah sì papà ne abbiamo sentito parlare. Comunque insomma, giusto così, a volte uno butta lì l'argomento e vede anche un po' i figli che cosa dicono. Allora, però io adesso ho un certo languorino sempre a quest'ora perché non faccio colazione e quindi sbaglio, lo so. Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, il nostro chef emozionale. L'altro giorno è venuto a trovarci allora. Brevemente, ma adesso buongiorno. Buongiorno, buongiorno, può chiamarmi maestro, non il nostro chef emozionale, maestro, sì, divinità, oh. Luce, signor Luce. Bernardo Ferruccio, no, io non cucino. Io non cucino, cucinare è un fatto spiacevole. Ci si sporca le mani. Ma lei ha mai cucinato in vita sua, un hamburger? L'ha mai fatto, guardi, un hamburger? Io metto le mie mani, ecco, io metto le mie mani solo dove possano rimanere intonse, linde, luccicanti, splendenti e profumate. Se avessi voluto sporcarmi le mani avrei fatto il cuoco. Invece io sono chef emozionale, tutta un'altra cosa, lei capisce. Dio c'è, forse non... anche Dio c'è. Dio qualche c'è. Volta è stato scritto anche fuori dalla mia dimora culinaria, è stato scritto Dio c'è, dopo aver vissuto questa esperienza emozionale. Sai che io in passato ho anche vinto il premio Chef Manicure. Sì, come chef dalle mani più curate d'Italia. Io odio quegli chef, diciamo, definiamoli pure chef con le dita tagliuzzate, piene di cicatrici, che sono procurate magari tagliando un piccione per farcirlo. La falcia, mettiamo la falcia nel piccione, la falcia. Si riempiono la bocca di questa parola, la falcia, come si chiama, golosa, la falcia golosa. Questi buona. Che fanno la falcia... La faccio, devono chiamare manovalanza culinaria, ma lo chef è un'altra cosa. Lo chef è un'altra cosa. Ha un pensiero. Io quando cucino ho un pensiero di fondo che muove le mie azioni. E il pensiero è: con quello che guadagno stasera posso installare nel mio attico la piscina riscaldata. Quindi lei capisce che è tutto un altro discorso, capisce? Io non cucino per la falcia, per il benessere della pancia, cucino per il benessere dello spirito, della vita, ecco, diciamo così, capisce che è tutta un'altra cosa. L'esperienza cambia, perché chi viene da me viene per vivere un'esperienza indimenticabile e io gliela so dare, anche solo attraverso il conto, bravo, che devono appunto. Pagare. Vede. Quella è un'esperienza che non scorderanno mai. 200-300 mila euro per una cena. Sono il giusto fio da sborsare per la mia esperienza emozionale. Quindi tu vuoi venire al pannocchio di Castelbiondo al desco di Nietzsche, la mia dimora culinaria, paga il giusto 200. Fio. Una volta un cliente per pagare il conto ha dovuto cedere la sua aziendina ai cinesi e aggiungere anche qualcosina, però ha vissuto un'esperienza indimenticabile. Ragazzi, cioè, voleva proprio, sì. Dal momento che oggi sono in vena di fare regali, vorrei regalare agli ascoltatori una mia creazione. Una mia creazione, devo dire, anche molto semplice oggi, molto semplice, molto leggera. Una ricetta. Non è una ricetta, è una creazione molto semplice che, ecco, questa volta potete anche provare a farla a casa. È un dolce anche con un nome, devo dire, molto banale, Sì. Allora, è un dolce, si chiama la banana, già definire banana mi infastidisce. Comunque la ho voluto banana. Essere alla portata di voi ascoltatori, di voi di Radio 24. Allora, si chiama la banana lontana dai luoghi comuni. La banana lontana dai luoghi comuni. Ebbene, il luogo comune della banana qual è? Qual è il luogo comune della banana? Vediamo se è preparato. Qual è? Che si mangia la polpa. Si mangia la polpa, certo. Si sbuccia, dite voi, si sbuccia la banana. E ecco, la nostra banana lontana dai luoghi comuni, noi invece serviamo la buccia per dare una nuova interpretazione più vera, più originale. Come? Quindi la polpa non la consideriamo, serviamo la buccia. La sbucciamo tutto questo. E mettiamo la buccia. No, solo la buccia. Sì, sbucciamo la banana e diamo solo la buccia. La buccia e la polpa. Chiunque, guardate, questo lo potete fare anche a casa. Ecco, sì, anche certo, lo potete, ma non fatelo, io scusi, no, questo. Ma se cosa? Volete provare un'esperienza diversa, guarda, chiunque lo può fare, l'importante è avere mentre si sbuccia, sbucciarla con dei guanti di cashmere. Quindi direi che è necessario per la creazione una banana e dei guanti di cashmere, non con le mani che prima avete toccato, magari dell'altro cibo avete toccato la maniglia, no? Indossate ma cosa dei guanti te ne fai di della buccia? Cashmere. Allora la metti in un bel piatto e servi la buccia. Tutto questo mentre il nostro maître, travestito da scimmia, lotta per contendere la buccia di banana al cliente. Per ripristinare quella lotta arcaica per la sopravvivenza, che può ricondurre i nostri ospiti a un'esperienza emozionale realmente innovativa. Quindi il cliente si vedrà servito da un nostro collaboratore questa buccia, mentre alle sue spalle il metro, travestito da scimmia, cerca di contendergliela e si instaura un'esperienza emozionale veramente interessante. Tutto questo al desco di Nice di Pannocchio di Castelbiondo, tra l'altro. La buccia di banana. Cioè la buccia, buccia no, di no banana. La buccia di banana. La banana lontana dai luoghi comuni. Sì. Poi se vuoi anche la polpa te la diamo in una doggy bag. Ecco. Tra l'altro è in offerta a solo 150.000 euro questa creazione. Ah, quindi ecco, è anche conveniente. Sì, quindi, questa creazione è 150.000 euro, però uno può farla anche a casa, quindi perché dovrebbe pagarla, scusa? Beh, si trova una comparsa che va a fare la scimmia dietro di lui. Ecco. Quindi venite a trovare me e mia moglie, Maria Benedetta Assunta Intingolo Paciulli, nella nostra dimora culinaria, il desco di Nice a Pannocchio per di Castelbiondo. Provare questa allora, nuova creazione. Allora, sento quel maleducato... in regia che già fa partire la base. Allora, finché si parla, per caro, come si chiama? Danilo. Sì, Danilo di Trani è a fianco a Danilo di Trani. Carmelo Lauricella adesso c'è. Carmelo Lauricella. Già un nome discutibile. Guarda quante R gliel'abbiamo messa apposta. Lo dica Carmelo, bene. Carmelo. Già questi nomi sono fastidiosi. Ma poi vorrei insegnare a questo signor Carmelo l'educazione. Dobbiamo chiudere. Non si fa partire la musichetta per capire che si sta andando lunghi. Stiamo se si ha un ospite, lascia parlare, chiudendo. Altrimenti vabbè, io abbandono Dio lo studio. La ringraziamo. Me ne vado e abbandono lo studio. No, ah. Che ce n'è già un altro. A domani. Ciao. Un abbraccio alla figlia di Alessandro Milan, che nonostante cotanto padre sembra veramente molto molto intelligente. Uno, nessuno.